5F. Ascolta e rispondi. Quante riviste italiane hanno letto? Non ne hanno letta nessuna. Quante sigarette hanno fumato? Non ne hanno fumata nessuna. Quante bugie hanno detto? Non ne hanno detta nessuna. Quante feste hanno dato? Non ne hanno data nessuna. Hai ascoltato dei CD oggi? No, non ne ho ascoltato nessuno. Hai fatto dei programmi per le vacanze? No, non ne ho fatto nessuno. Hai avuto dei problemi oggi? No, non ne ho avuto nessuno. Hai imparato tutti i nomi dei colleghi? No, non ne ho imparato nessuno.